un pasito pa'lante Maria, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Il desiderio, anche la voglia di condividere, di avere, mi stavo impaperando. Certo, ma è molto giusto, ha sintetizzato molto meglio di me, che sono più prolisso, quindi no, complimenti per lui, no. Complimenti per lui. Che lei ci piace così tanto, non dica così. Grazie mille, ti ricorderà adesso. Giuseppe, le abbiamo risolto una situazione, ci fa piacere, adesso al volo non me la ricordo. Siete bravissime, bellissime, eccetera, eccetera, eccetera. E vi ascolto sempre volentieri. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Ebbene sì, ci rimettiamo a viaggiare, cuore e denari infatti è in trasferta in questo venerdì 22 maggio. Abbiamo fatto un giro a Bologna, dove è stata inaugurata due giorni fa la 26esima edizione di Autopromotech, la più specializzata rassegna internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico. Fra un po' vi spiegherò anche cosa c'è dietro a questo concetto. Siamo con Nicoletta naturalmente nel quartiere fieristico di Bologna, lo stand, se volete venirci a trovare fate ancora in tempo, lo stand di Radio 24. È collocato presso il centro servizi, stand numero 1, area circuito delle idee, assolutamente ben visibile per chi entra e naturalmente oblitera il biglietto. Ci cadete dentro, esatto. Insomma. Tema auto a 360 gradi, oggi questa manifestazione infatti è considerata la piattaforma di tecnologie avanzate, innovazioni, novità di prodotto, e quindi anche noi di Cuore Denari partiamo da questo argomento, parliamo di noi e della nostra auto, perché da questa rassegna possiamo portare a casa tante informazioni utili per la manutenzione dell'auto. È un tema molto ampio, oggi lo circoscriviamo per la pagina di Denari alla questione del tagliando e della revisione. Ci chiederemo quali sono i nuovi adempimenti che dobbiamo rispettare come automobilisti, perché il 2015 ha portato tante novità che oggi spieghiamo a tutti voi approfittando della nostra presenza a questo salone. Allora, se siete in procinto di fare questa revisione all'auto, chiamateci se volete avere un aggiornamento sulle ultime novità, 800 24 0024, per iniziare a prenotare i vostri interventi. E potete utilizzare lo stesso numero verde per parlare della sicurezza, non solo di quella della vettura, che è importantissima, ma noi sappiamo bene che al volante ci vuole anche un automobilista attento e responsabile con la testa sul collo. Di questo parleremo nella seconda parte della trasmissione. Il nostro esperto ci aiuterà dandoci tutti i consigli e le raccomandazioni per metterci alla guida in pieno benessere e per mantenerci in piena salute. 800 24 0024, intanto iniziate a dirci che tipo di automobilista siete, quanti chilometri macinate e che cosa vi pesa o vi piace di più della guida. A tra poco. C'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela e basta. Allora, in Italia abbiamo circa 37 milioni di auto circolanti, di cui oltre 11 milioni e mezzo, circa il 31,4% sul totale, sono Euro 0, Euro 1, Euro 2, si tratta di auto immatricolate prima del 2001. Questi dati derivano da uno studio dell'osservatorio Autopromotech su dati ACI, circa un terzo del parco auto circolante italiano, quindi ha più di 13 anni di vita ed è composto da autovetture che hanno livelli di sicurezza ed inquinamento molto lontani dai modelli di più recente produzione. Nel nostro paese, sottolinea sempre questo osservatorio, quasi una vettura su tre è altamente inquinante e poco sicura. Ecco perché è indispensabile provvedere ad una corretta manutenzione della nostra automobile. Sappiamo che ci sono le revisioni obbligatorie, ci sono regole ben precise, sappiamo anche che con il nuovo anno, lo abbiamo appreso in questi giorni, sono diventati operativi una serie di aggiornamenti normativi che riguardano sia gli utenti che i manutentori. Noi abbiamo approfittato, come vi dicevo, di questa nostra presenza qui ad Autopromotech per farceli spiegare da un esperto del settore. Per una volta tanto non è in giro per il mondo, ma è stanziale qui a Bologna e approfittiamo della sua presenza. Massimo Brunamonti, vicepresidente di EGEA, che è l'associazione europea produttori di autoattrezzature. Benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. E allora, chiaramente potete anche voi aiutarci ad animare questa conversazione con Massimo Brunamonti con le vostre domande all'800 24 00 24. Se preferite scriveteci al 349 238 6666 oppure interagite con noi sui nostri social. Andate sul sito di Radio 24, andate sulla pagina di Cuore Denari attraverso mettete la un like, mettete mai, esatto, non si butta oppure mai via. Esatto, fate la vostra iscrizione. Naturalmente potete anche attraverso il sito di Radio 24 approdare sui nostri social network, con un percorso un po' tortuoso che non ha necessità di guidare un'auto, ma ci si può andare tranquillamente. Allora, dottor Brunamonti, iniziamo dall'inizio. Naturalmente il tagliando periodico, la revisione, sono impegni che ci toccano tutti se abbiamo l'auto, no? Ci sono però delle novità molto importanti che contraddistinguono questo 2015. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa per il climatizzatore e la caldaia. Ogni anno qualche norma nuova arriva a rimescolarci un po' le carte quando dobbiamo prenderci cura di tutta la dotazione tecnologica della nostra vita. Oggi ci soffermiamo sull'auto. Che novità ci sono? Sì, la novità più importante di quest'anno è l'implementazione di un sistema di teletrasmissione dei risultati della revisione alla motorizzazione del Ministero dei Trasporti. Tutto il sistema, che in Italia è in esercizio dal 1996, quest'anno viene aggiornato attraverso una telematizzazione e un'automazione per garantire una migliore qualità della revisione e cercare di combattere l'annoso problema delle revisioni farlocche che tutti quanti conosciamo. L'impatto è importante, tutta i centri di revisioni hanno fatto uno sforzo importante in tal senso, lo stesso la direzione della motorizzazione. Direi che questo ci dovrebbe portare al famoso obiettivo di maggior sicurezza nell'auto. Qual è la revisione farlocca, tra l'altro? È quella per la quale, non lo so, noi portiamo da un carrozziere un'auto che non avrebbe nessun titolo per essere fatta circolare regolarmente e invece c'è così un po' qualcuno che chiude gli occhi e dice no, senti, te la faccio circolare ancora, diciamo. Ho banalizzato molto, però credo che il tema sia questo. Quella che ti potrei fare io, insomma. No, ma tu non hai una macchina poi così messa. Ah no, certo, come ti dici, no. In qualità di chiudere gli occhi. Purtroppo abbiamo visto di tutto di più, anche in televisione, anche in internet, addirittura veicoli non portati a effettuare controlli, insomma, controlli fatti sulla carta. Quindi un rilascio di un documento così sulla carta, sulla base a detrimento di tutti, perché poi la tariffa viene pagata ugualmente. Infatti. Senta, poi approfondiremo questo aspetto, quindi capiremo che cosa cambia. Le carrozzerie saranno obbligate, quantomeno gran parte di queste, a dotarsi di questo impianto di trasmissione di informazioni alla motorizzazione. Per quello che riguarda invece le scadenze, intanto partiamo da qua. Ogni quanto va fatta la revisione dell'auto? Allora, la legge, che è conforme alla direttiva europea che è stata aggiornata l'anno scorso, prevede che la prima revisione debba essere fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni fino alla vita del veicolo, e questo riguarda tutti i veicoli fino a 3,5 tonnellate, in pratica tutti i veicoli che si possono guidare con la patente B, inclusi 2 ruote, 3 ruote, quad, tutti. Per quanto riguarda invece veicoli commerciali, veicoli speciali, ambulanze, taxi e simili, siamo in un regime mediamente, diciamo non per tutti, però grande maggioranza, un anno. Ogni anno va revisionato il veicolo. Certo, non esiste una revisione che va fatta ogni tot chilometri. Le chiedo questa cosa qua perché in realtà io ho un display sulla mia, non dico la marca dell'auto perché sennò sembra che faccio tutti la compra, che mi indica in realtà ogni quanto devo portarla dal carrozziere per fare questo controllo. Per questo immaginavo che più che la scadenza annuale, biennale, ci fosse una scadenza della revisione tarata sui chilometri che l'auto fa. Ad oggi non è così, anche se l'argomento è estremamente sensibile, tant'è che è stato discusso a lungo. Io mi allerto subito, non appena vedo che mi lancia il messaggio mi spavento e la porto al volo, e invece non succede niente se non do retta al messaggio. No, le spiego, è stato discusso a lungo a Bruxelles prima dell'emissione della direttiva dell'anno scorso. E sa perché è stato deciso di non farne di niente? Altrimenti si sarebbe favorito il tampering del chilometraggio, cioè la riduzione abusiva del chilometraggio. Quindi ad oggi una ne fai, mille ne pensano. Sì. Però sarebbe stata una bella idea. Ma infatti era sul tavolo e non era assolutamente peregrina, certo. Perché più la uso e più il veicolo si direi allora. Che è inutile che io la faccio ogni 2 anni, perché magari un'auto, io ho la stessa identica auto di una mia carissima amica, lei fa praticamente praticamente un quarto dei chilometri che faccio io, ma certo, sulla base di quello che mi dice lei, in realtà la revisione ce l'abbiamo con la medesima scadenza. È a tempo, sì. E invece io ci sono già andata un sacco di volte perché mi spavento, perché vedo i chilometri. Lei non l'ha mai portata perché in realtà nessuno la sollecita in questo senso. Certo. Dottor Bruno Monti, quanto costa fare la revisione dell'auto? Eccolo. In Italia è tariffato e costa 65,68 euro. Certo, diciamo solo esatto, l'adempimento. Dopodiché, sì, se escono fuori dei problemi, c'è da, certo, fare una sistemazione di un piccolo difettuccio. Quindi è il controllo, quello. È il controllo, cioè. Se non vado errato, è stato fatto uno studio in tal senso proprio dall'osservatorio Autopromotech, e mi sembra di ricordare, però prendiamolo con beneficio di inventario, che il costo per l'adeguamento di un veicolo che non ha superato la revisione, costo medio per l'adeguamento su tutto il parco revisionato, mi sembra sia intorno ai 110 o 120 euro. Quanto tempo ci deve mettere un carrozziere per fare un controllo che possa essere considerato soddisfacente? Il tempo medio di revisione è intorno ai 20 minuti. Cioè una revisione completa dell'auto che copre sia la parte emissioni che la parte sicurezza che la parte registrazione, tutto quanto, è intorno ai 20 minuti. Allora, pensa che bello se noi potessimo farci revisionare in 20 minuti. No, invece come tu mi insegni con i tuoi, e poi con i tuoi medici, facilmente, esatto, no? Con... Beh, magari se uno fa un uso corretto dell'auto per tutto l'anno, un po' come ci si deve prendere cura del corpo e della salute, magari ecco, il controllo di revisione richiede effettivamente poco tempo, perché ci siamo comportati con senso di responsabilità e alla guida, e con naturalmente l'uso dell'auto. Certo. In caso contrario ci vuole un po' di più. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate. Vedo già qualcuno che sta prenotando i suoi interventi, vedo anche diversi messaggi, un ascoltatore ci segnala che ha un appuntamento il 22 maggio 2016 per la revisione, quindi fra un anno. Qualcuno contesta questo impegno perché lo reputa un po' un'ennesima gabella, una tassa da pagare, però insomma, come diceva giustamente il dottor Bruno Monti, della nostra sicurezza. Lei che cosa ne pensa dei numeri che ho dato all'inizio su questo parco auto di macchine vecchie che ancora circola nel nostro paese, dottor Bruno Monti? Poi ne ho anche un'altra di statistica, vorrei raccontarla più tardi, ma i numeri sono più o meno questi. Abbiamo visto in questi anni che cosa è successo con le immatricolazioni di auto nuove, un mercato che si è completamente bloccato perché la crisi si è fatta sentire in maniera significativa. Fare l'investimento in un'auto non è un investimento da poco per una famiglia, e questo porta naturalmente a tenersi l'auto vecchia che si ha anche a lungo, e quindi ad implementare il parco auto dei mezzi appunto circolanti di auto vecchie. Che dice? Mi sembra che la sorgente dell'informazione del Servizio Autopromotech mi risulta essere estremamente qualificato, quindi questo tipo di informazione dovrebbe essere corretta. Il parco circolante è invecchiato nell'ultimo biennio a causa della diminuzione delle vendite dei veicoli nuovi, che stanno risalendo un attimino, certo, adesso, quindi è un la trend. Crisi, no? Sì, direi proprio di sì. È un fatto che il veicolo più vecchio è e più è rischioso da tutti i punti di vista, e il senso della revisione è proprio questo. Se ci ricordiamo tutti quanti perché sono nate le revisioni sono nate nell'ambito del permettere una diminuzione delle fatalità, e ricordiamoci anche che nel decennio 2000-2010 le fatalità in Italia sono scese da quasi 8.000 l'anno a meno di 4.000, l'anno scorso sono state 3.700 e rotti, quindi più che dimezzate. Si tende a dimezzare ulteriormente nel decennio 10-20, quindi dovremmo arrivare a 1500, si spera, certo, ci auguriamo tutti. La revisione gioca un suo ruolo in questo, non tanto direi nel diminuire le mortalità, ma nel ridurre i danni. Cioè un veicolo sicuro purtroppo magari non è sufficiente per evitare un decesso. Ovvio, sì. Però un veicolo sicuro può ridurre la conseguenza deleteria di un incidente, certo, o qualcosa del genere, perché ha in atto, in esercizio, tutti i dispositivi che diciamo tutela, salvaguardano la sicurezza di chi, certo, c'è dentro. Durante una revisione, dottor Bruno Monti, in questi 20 minuti, mezz'ora, un'ora appunto, in cui il nostro professionista di fiducia si prende l'incarico di fare un monitoraggio sullo stato di salute dell'auto, quali sono i controlli base che fa? Freni, fari, emissioni, parti sospensione sterzante, giochi nella carrozzeria, e poi alcuni accessori chiaramente correlati, però diciamo i dispositivi base, il centro, freni, fari, emissioni, carrozzeria, sospensioni. Ottimo, abbiamo tante domande per lei, contento? Prego. Bene, allora io andrei subito da Filippo che ci chiama dalla provincia di Palermo, e poi andiamo da Andrea. che fermo. Fermo. Buongiorno Filippo, a tutte benvenuto. Filippo. Buongiorno anche a voi. Io volevo chiedere praticamente il fatto che una macchina dopo due anni debba fare revisione, anche se per esempio ha percorso pochissimi chilometri. Io fra tutte le altre cose mi trovo ad avere una moto d'epoca, due moto d'epoca, che pur facendo pochi chilometri durante l'estate, mi ritrovo ogni due anni con questo fardello della revisione, che non mi sembra più giù, insomma, Filippo. Quanto le costa per la moto? Quanto le costa fare chilometri? Filippo, mi scusi, quanto le costa fare questa operazione per la moto d'epoca che lei si gode solo d'estate? 65 euro ogni revisione. Sì. Come moto, come macchine. Filippo, grazie per la sua testimonianza. Lo dicevamo un po' anche all'inizio, no? Lui dice comunque le auto le uso poco, la gabella biennale mi sta un po' indigesta. Anche le moto hanno gli stessi adempimenti, sì, da rispettare. Quindi Filippo ne ha già due. Vabbè. Esatto, ma c'è qualche proposta in giro per poter in qualche maniera modificare la cadenza temporale delle revisioni, dottor Brunamonti, proprio per soddisfare anche la domanda di quegli automobilisti che comunque fanno un uso relativo dell'automobile? Sì. Insomma, non si potrebbe trovare un modo per appunto spingere un po' la questione del chilometro? Ne faccio pochi. Sì, no, ma è giustissimo, è stato anche a lungo discusso sia a livello Bruxelles che a livello Ministero dei Trasporti italiano, perché l'osservazione è giustissima, è fuori discussione che il veicolo utilizzato poco sicuramente intrinsecamente si deteriora più lentamente e come dicevo è stato discusso ed è stata lasciata anche una porta aperta perché questo accada, e spiego il motivo per cui non è stato fino ad oggi implementato un limite di chilometraggio piuttosto che un limite temporale, è perché si aveva paura della contraffazione del chilometraggio. E quindi in questo momento non è stato fatto niente, però la direttiva europea nuova prevede una verifica e una registrazione del chilometraggio in fase di revisione. Quindi se si riesce a combattere il problema della contraffazione, sicuramente può entrare in vigore la revisione a chilometraggio, ecco, piuttosto che a tempo, o semmai entrambe. Mi ricorda molto tutta la polemica sui premi dell'RC Auto in Italia, no? Siccome abbiamo una grandissima attività fraudolenta legata anche alle denunce degli incidenti, il collarino facile eccetera, lo paghiamo dei prezzi altissimi. Se ci fosse un senso di responsabilità generalizzato nel nostro paese che si spalma appunto tra tutti, certamente pagheremo molto meno, anche quella non ci sarebbero tutte le polemiche. Mi ricorda molto appunto anche quella questione là. Allora Ci aspetta da Fermo. Andrea, mi ha lasciato lì. Esatto. Sono qui. Buongiorno. Andrea, buongiorno, lei si è perso però una puntata che noi abbiamo già fatto su quell'argomento là, ma lo ribadiamo stamattina il tema. Grazie. Sì, io personalmente faccio 7.000 chilometri l'anno, ho un'auto che ha più di 15 anni. Volevo solo dire questo, le gomme, anche se non le consumo, le devo sostituire ogni 3, ma massimo 4 anni, perché diventano dure. Mm-hmm. Specialmente sulle rotonde, quando è bagnata, anche col battistrada alto, la macchina parte. Quindi quando comincia a scivolare so che devo cambiare le gomme. Chiaro Andrea, quindi magari non subiscono un'usura di un certo tipo legata al grande consumo, ma ne subiscono un'altra legata invece al fatto, dottor Brunamonti, che questo mezzo circola poco. È proprio un fenomeno di vetrificazione della gomma, del pneumatico stesso. Cioè purtroppo i moderni materiali che assicurano sicuramente una tenuta molto buona, soprattutto poi differenziando estate e inverno, fatti apposta perché questo accada, purtroppo sono soggetti a un fenomeno di vetrificazione. Mm-hmm. E infatti il fornitore del pneumatico dà anche un periodo di tempo entro il quale il pneumatico si può usare, non solo lo spessore del battistrada. Scadono un po' come esatto. Lo yogurt. Allora, dottore Brunamonti, siccome ovviamente lei sa che per definizione le donne di auto capiscono poco o nulla, già qualche ascoltatore mi segnala che non ho utilizzato la terminologia corretta per per esprimere dei concetti. State facendo confusione fra revisione e tagliando chilometri. Allora, per me andare a fare la revisione e il tagliando è più o meno la stessa cosa. Mi illumini lei questa mattina, facciamo l'ABC. Mi dispiace, ma devo dare ragione all'ascoltatore. Ecco, ci dica. Perché mentre per revisione si intende un adempimento regolato dalle normative, quindi Ministero dei Trasporti in Italia, direttive europee, eccetera, ed è una verifica, il tagliando invece è proprio una, come dire, messa a punto dell'esercizio del veicolo, cioè io nel tagliando cambio l'olio, le pastiglie dei freni, l'olio del servosterzo, tutto quanto, cioè quindi mantengo come noi il veicolo. Facciamo la tinta, la ceretta, sì. Queste cose qua, ah, no? Però non avrei mai pensato di fare un parallelo di possiamo chiamarlo make up, il make up dell'auto, si possono fare con più sicurezza, mentre il tagliando non è obbligatorio per legge, è soltanto una buona cura del veicolo, la revisione è un obbligo di legge. Invece le segnalo che un'ascoltatrice, Ilaria da Legnano, a sua volta ci segnala che dobbiamo segnalare il portale dell'automobilista. Me ne ha parlato un'amica, io sono andata a vederlo, quindi donne che ci danno una grande soddisfazione. Brava, è utilissimo per restare aggiornati e ricordarsi scadenze su patente, bollo e revisioni. Concorda? Bruna Monti, possiamo segnalare. Allora, ecco qua, anche Maurizio da Jesi, oggi sono particolarmente accaniti i marchigiani su questo argomento. Sai che i marchigiani hanno quel bel caratterino. È che il manto stradale in quella regione non è facile da praticare, per cui ci rovina un sacco le auto. Maurizio, benvenuto. Forse le abbiamo bruciato la domanda. Pronto? Maurizio, forza. Maurizio. Pronto? Non ci sente. Buongiorno. Sì, facciamo una cosa. Pronto? Maurizio, visto che non ci sente, vado a fare i mercati e sentiamo la sua... Pensavo che gli dicessi vado a fare una passeggiata. No, ripristiniamo la telefonata perché vedo che ha qualche difficoltà. Sono le 11.31 tra l'altro, qua divertendoci con l'auto. Mercati. Mercati, a tra poco. Cuore e denari. Sappiamo fare i conti e la ginnastica, guardare il mare e respirare plastica. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina. Non siamo in macchina, ma quasi. Di macchina stiamo parlando qui allo stand 1 del centro servizi dell'auto Promotech di Bologna, nell'area circuito delle idee. Oggi parliamo di revisioni, di tagliandi, anche dei nuovi adempimenti, ma parleremo anche di chi sta al volante, dell'automobilista. Lo faremo a partire dalla seconda parte della trasmissione, quindi a partire dalle 11.45, con un esperto che è autore di un trattato. Si intitola Fisiologia clinica alla guida. Insomma, la guida ci cambia e per guidare dobbiamo assicurare assolutamente il nostro benessere. Le condizioni di salute possono in qualche modo interferire sulle nostre capacità di attenzione e quindi sulla sicurezza alla guida. 800 24 00 24, diteci quanti chilometri macinate, che cosa vi piace, che cosa vi pesa della guida, se siete allergici, vedo Deborah che mi dice sì, se siete allergici, se soffrite di cefalea. Insomma, raccogliete tutte le informazioni utili per diventare protagonisti della seconda parte di Cuore e Denari. Donne non sanno guidare, donne la marcia fanno sempre grattare. Allora, dottor Bruna Monti, io so guidare molto bene, anche se non avevo proprio l'ABC della revisione del tagliando. Ho appreso tutto questa mattina, ma d'altronde Cuore e Denari è fatta apposta per questo. Abbiamo capito che revisione va ad anni e il tagliando va a chilometri. Sostanzialmente. Così. Pertanto il display della mia auto che mi segnala ogni 20.000 chilometri di fare un controllo non è revisione, ma il tagliando che devo fare. Ottimo, oggi abbiamo messo un grimaldello molto importante nella nostra formazione automobilistica. Nel frattempo abbiamo ripristinato il collegamento con Maurizio Daiesi, ma prima di sentirlo io vorrei però andare al dettaglio di quella notizia dalla quale siamo partiti, dottor Bruna Monti, no? Cioè il fatto, questa novità che ha suscitato grande curiosità e anche un po' di apprensione tra le società che proprio devono occuparsi di fare la revisione del parco auto in Italia. Da inizio anno qua ho trovato questa definizione, le fabbriche di riparazione, ma sono i centri di revisione, dove vengono svolti i test appunto di revisione delle auto, dei veicoli, devono dotarsi di questo sistema di videosorveglianza collegato alla motorizzazione, un sistema di riconoscimento delle targhe, nella sostanza, dove si attesti che non vengono compiute frodi a scapito dei clienti che affidano la propria auto a questi centri per i regolari controlli. Sì. Sono comunque oneri, immagino, che questi centri devono sostenere, che già qualcuno ipotizza si scaricheranno sulle persone che andranno a fare la revisione. Sì. E intanto tutti i centri di revisione dovranno dotarsi di questa strumentazione di sorveglianza? Il sistema MCTCnet 2, che è innovativo di quest'anno, entro il 31-12 di quest'anno dovrà essere operativo in ogni centro di revisione italiano, e parliamo di circa 7.500 centri di revisione privati in Italia. La sostanza di questa novità è in due cose. La prima è l'automazione delle misure, cioè ogni strumento genera automaticamente il proprio risultato, mm-hmm. e questo risultato va automaticamente nel file complessivo del veicolo, senza intervento dell'operatore. L'altra grossa novità è questo sistema di rilevamento della targa, mediante il quale durante il test di frenatura, che è il più importante del veicolo, un'apposita telecamera riprende un'immagine del veicolo con la targa e analizza automaticamente, elettronicamente, la targa, perché essa corrisponda alla targa del veicolo che era stato prenotato in revisione. Questa fotografia necessiterà della nostra autorizzazione, quindi in automatico, se io scelgo quel centro di revisione so che la mia auto sarà sottoposta potenzialmente a questo controllo, o obbligatoriamente? Obbligatoriamente. E i dati vengono trasferiti alla motorizzazione? Immediatamente. E la motorizzazione, appunto, che tipo di check-up a sua volta fa? La motorizzazione, immagino io, che farà il tipo di controlli che ha sempre fatto, cioè analizzando i dati provenienti dai vari centri di revisione, ne analizzerà la consistenza e la coerenza, e di conseguenza avrà sicuramente, questo sì, molti più strumenti per verificare come operano i centri di revisione, e quindi senza necessariamente sanzionare, ma voglio dire, facendo il loro mestiere, normale mestiere, potranno verificare l'operatività dei centri molto più in dettaglio di prima. Da dove ci arriva questo obbligo, dottor Brunamonti? A livello europeo è una questione italiana, nazionale? La ripresa con la telecamera è nazionale. A livello europeo, però, la nuova direttiva che menzionavo prima richiede, entro un lasso di tempo, che ogni Stato membro metta a disposizione una piattaforma elettronica dei dati di revisione scambiabili tra Stati membri, in maniera tale che, come non è oggi, io possa circolare con il mio veicolo ovunque avendo la mia revisione valida. Certo, quindi diciamo che nello spirito l'iniziativa è buona. Come la stanno prendendo i centri di revisione? Sono contenti di dover fare l'installazione di questa strumentazione? Guardi, io devo dire che l'impatto passato, anche comprensibile, diciamo, cautela iniziale, in questo momento non sento parlare di problematiche particolari. L'operatività c'è tutta. Ad oggi penso che si possa dire che su 7.500 centri credo che ormai un 20% sia già equipaggiato, quindi una buona massa, parliamo di migliaia comunque di centri di revisione, e non avendo, non essendo a conoscenza, non essendo risultato nessun tipo di problema grave con un 20% di centri, mi sembra di poter dire che la cosa stia andando liscia. Esatto, diciamo che noi come utenti finali non ci dovremmo neanche accorgere di questa Anche novità. Perché l'innovazione non ha portato nessun cambiamento tariffario, le tariffe sono sempre quelle, non c'è, credo, non sento parlare di previsioni di aumento, quindi. Bene, molto bene, questo ci fa piacere. Velocemente qualche domanda per lei, poi la lasciamo andare a visitare Autopromotech, dottor Brunamonti. Allora, avevamo in sospeso Maurizio Tagliesi. Buongiorno Maurizio. Maurizio, ci sente adesso? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Una cortesia, io chiedevo, sono in possesso di una vettura che ha circa 10 anni, la cui targa ha la pellicola che copre i numeri, leggermente screpolata. È obbligatorio cambiare le targhe all'atto della revisione? Grazie Maurizio, sentiamo subito, facciamo fare una consulenza volante a Massimo Brunamonti. Direi di no, anche perché il sistema di riconoscimento è molto sofisticato e ha avuto degli ottimi risultati con pochissimi, un numero di errori estremamente limitato, quindi non credo che l'eventuale leggero deterioramento della targa implichi una necessaria sostituzione. Certo. Walter da Bologna, ma lei non poteva venirci a trovare qui ad Autopromotech? Ci telefona? Sì, Walter. Mi sente? Sì, certo. Walter, ci siamo. Perfetto. Allora, io sono appena uscito da auto, però per fare delle assistenze, per cui un attimo dopo. Perché non è venuto a trovarci? Ci siamo mancati per un pelo, Walter. Per un pelo ci siamo mancati. Mannaggia. Io, oltretutto mi occupo nel settore automobile. Io volevo contestare un attimino il discorso che veicoli che percorrono molto chilometri sono più pericolosi. Premetto, io oggi ho 5 milioni di chilometri percorsi. 5 milioni, ha preso la coppa. Faccio mediamente 120 mila chilometri all'anno di percorrenza per assistenza per tutta Italia. Chi sì. usa il veicolo per questa percorrenza lo usa per lavoro, per cui il veicolo viene stracontrollato, perché rimanere a piedi a 300 chilometri, ma a piedi anche con un freno, tanto per dire, a 300 chilometri da casa è una rovina. Certo. Walter, quindi concludiamo con questa sua considerazione. Lui dice, insomma, potremmo aprire il dibattito sul tema dei chilometri. Lui dice, nella sostanza è molto più controllata la mia auto proprio in virtù del fatto che devo camminare molto, insomma, vabbè. Sicuramente chi usa il veicolo per lavoro è evidente che ha necessità di controllarlo bene, però è anche altrettanto evidente che il deterioramento va insieme all'uso. Infatti. Dottor Bruno Monti, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sulla revisione barra tagliando, in particolar modo, o abbiamo un ultimo messaggio finale da lanciare a beneficio dei nostri ascoltatori che devono essere ben documentati? Se volete avere qualche informazione in più su queste novità e gli adempimenti del 2015, ce l'hanno suggerito gli ascoltatori, andate sul portale dell'automobilista e non solo, insomma, motorizzazione civile, ci sono tanti centri che possono aiutarci, oltre che al nostro carrozziere di fiducia. Un commento velocissimo. Finale. Le revisioni nascono come strumento per aumentare la sicurezza sulle strade. Non sono il principale è chiaramente la responsabilità. La guida. Esatto. Altre cose sono altrettanto importanti, ma la revisione gioca un ruolo, e se noi vogliamo ridurre gli incidenti e le loro conseguenze, la revisione aiuta. Grazie a Massimo Brunamonti, vicepresidente di EGEA, Associazione Europea Produttori Autoattrezzature. Noi che si fa? Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi facciamo anche noi la revisione dell'automobilista. A tra poco. Cuore e denari. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Noi non vi chiediamo di andare a 100 all'ora, ma anzi di fermarvi qui allo stand 1 del centro servizi dell'auto Promotech di Bologna, nell'area circuito delle idee. Anche in questa seconda parte vogliamo parlare di revisione, Deborah, perché facciamo la revisione dell'automobilista. Facciamo con un grandissimo esperto, il professor Aldo Ferrara, professore di malattie cardiopolmonari all'Università di Siena. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi tutti e ai nostri ascoltatori, che spero abbiano dei consigli utili. Grazie. 800 24 00 24, se volete dare consigli al professor Aldo Ferrara, che ne farà tesoro. Naturalmente facciamo uno scambio. Beh, più che altro quesiti, ma insomma, ecco, adesso vediamo. Perché il professor Ferrara ha scritto un libro, Fisiologia clinica alla guida, che ci interessa in modo particolare. Professore, iniziamo a dire che benessere e sicurezza sono due concetti che in auto vanno a braccetto, perché mettere a rischio la propria e l'altrui salute ha un limite, dipende da un limite molto sottile, la coscienza del rischio nel mettersi in viaggio, ad esempio durante una condizione di malessere, quando abbiamo mal di testa, abbiamo digerito poco, stiamo prendendo dei farmaci che magari producono sonnolenza. Allora, l'imprevedibile, come scrive lei nel suo libro, è imprevedibile, ma qualche cosa noi possiamo fare per limitare i rischi, ed è quello che noi vorremmo fare oggi con il suo aiuto, perché lei ci deve individuare quelli che sono i potenziali rischi. Facciamo con lei la revisione dell'automobilista, con Deborah, il suo esperto. Prima abbiamo fatto la revisione dell'auto, adesso facciamo la revisione dell'automobilista. Professor Ferrara, che ci dice? Allora, innanzitutto i termini della questione devono essere tre: sicurezza, comfort e benessere in auto, ma soprattutto c'è anche il comfort. Dobbiamo partire dall'idea che è ormai, data la flessibilità, il movimento delle nostre città e soprattutto una una politica socio-economica improntata sul terziario, cioè spostamento di merci materiali e immateriali, la macchina è diventata la nostra terza abitazione. Dopo l'ufficio, dopo la casa, noi trascorriamo in questo cubo di un metro e mezzo circa di metro quadrato di volume gran parte della nostra vita. Nelle grandi città la media è 2,3 ore al giorno per Milano, 2,54 per Napoli e naturalmente la nostra grande Roma, nonché anche capitale, 2,7. Cioè in un anno si trascorre circa un mese della propria vita in auto. E allora in auto si comincia a trasformare l'auto in una microabitazione nella quale si legge il giornale, si ascolta la radio, si vede la televisione coi tablet, cioè si fanno tutte delle cose. Si tengono delle piccole scorte, biscotti, caramelle, naturalmente acqua, le sigarette, e in tutto questo spesso non c'è solo l'individuo solitario, no? Il Soldini della situazione, l'uomo solitario che attraversa l'oceano di macchine nel deserto della nostra città, ma c'è la famiglia, i bambini che piangono, i bambini che mangiano, i bambini seduti sul pavimento, che è una cosa sbagliatissima perché l'anidride carbonica si deposita sul pavimento e quindi il bambino, come nella grotta del cane di Pozzuoli, finisce per avere mal di testa e vomitare in macchina. Questo è lo scenario. E poi c'è il cane con i peli del cane. Allora professore, la fermo un attimo, coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori. Raccontateci che cosa c'è dentro la vostra macchina. Tutto. È una piccola casa, descrivetecela. 800 20. E spesso è anche un boudoir, perché è scena di situazioni non certo descrivibili attualmente alle 11 del mattino. Vedi, l'abbiamo buttata anche un po'. Allora, intanto professore, lei non ha forse sentito la nostra prima parte della trasmissione in cui abbiamo mandato una canzone in cui diceva sempre solitamente, no, le donne guidano male, eccetera. Invece lei nel suo libro ci tiene le parti. Ecco. La donna, vada professore, ecco, lo dica. Anche se ci mettiamo il rimmel allo specchietto. Ecco, però ecco, attenzione con la cuffia, perché sennò Filippa Oreggi... No, la cuffia c'è sempre. Dunque, nel volume si accenna alla capacità di automobilista della donna. Brava, in realtà, dica bene, professore. No, in realtà si prende lo spunto da un altro volume edito nel 2012, il cui titolo era Quando il volante è rosa, la donna al volante. Brava. Ma la donna al volante non è semplicemente la professionista, la casalinga, la donna di tutti i giorni che guida, è anche e soprattutto la lavoratrice addetta al trasporto pubblico. Pochissimi sanno che una quota parte, circa il 12% dei trasportatori a lungo termine professionisti è donna, e quindi questo comporta per la donna tutta una serie di necessità adattative alla situazione di trasferimento merci o naturalmente passeggeri. Che la donna sia più attenta all'auto non ci sono dubbi, è sicuramente molto più prudente. Insegna all'università, se lo dice lui, incido sulla pietra. Ma solo il 14% delle donne si preoccupa di misurare la pressione delle gomme, la pressione controllare delle gomme è estremamente l'olio importante. Non ne parliamo. Io sono l'eccezione. Senta, ma professore, lei da che parte gioca? Da che parte sta? Solo e sempre da parte delle donne. E allora andiamo a Bruno da Treviso che le dà una mano. Buongiorno e benvenuto Bruno. Buongiorno, sì, buongiorno. Bruno. Sì, buongiorno. Allora, era meglio se era biondo, però è Bruno. Delle revisioni, siccome che il 90% delle automobili hanno impianto di condizionamento, però mi risulta che l'80% nessuno fa i controlli dei filtri dell'impianto di condizionamento, che quello è causa di tanti, diciamo, infezioni, soprattutto salmonella. E credo che questo venga, diciamo così, non osservato. Salmonella la vedo un po' esagerata. Comunque Bruno ha ragione. Perché il problema è come l'impianto di casa, e quindi il problema di queste cose qua, che quando rimane fermo la macchina, comunque una volta all'anno sarebbe importante, come faccio io. Bravo Bruno. Allora, dell'auto. Prof. Dati i cambiamenti climatici, grazie Bruno, una domanda ottima che dà lo spunto per dire che dati i cambiamenti climatici non vanno controllati i filtri ogni anno, ma ogni 6 mesi. I filtri sono estremamente importanti per la cattura di tutte quelle sostanze che abbiano una dimensione superiore al poro del filtro, e purtroppo in realtà sono poche, perché virus, batteri, legionelle, non salmonelle, actinomyces e micelle di vario tipo, virus, batteri e anche lo stesso polline riesce a filtrare attraverso i pori di questi filtri. La cosa molto importante è che vanno utilizzati i filtri originali, non quelli generici che si possono trovare dai nostri micro rivenditori. Allora, subito dopo il GR vi aspettiamo per fare la revisione dell'automobilista. È il villaggio globale delle tendenze, quello che vi racconteremo ogni sabato. L'attualità di spettacoli, libri, tecnologie e consumi e tutti i consigli per i vostri acquisti mentali. Con l'imperdibile della rete, nel nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio. Il sabato del villaggio, di Marta Cagnola. Il sabato dalle 15 alle 18 su Radio 24. Cuore e denari. Fuori per strada trovo già un casino, mani nei capelli e ritornelli in testa senza mia uscita. Siamo tornati insieme, siamo all'Auto Promotech di Bologna, allo stand 1 presso il centro servizi all'area circuito delle idee. Stiamo facendo una revisione dell'automobilista insieme al professor Aldo Ferrara, autore di Fisiologia clinica alla guida. Professor Ferrara, ci sono delle condizioni che ci espongono ad un rischio, e ci sono anche dei fattori di rischio che noi non consideriamo che possono compromettere la sicurezza alla guida. Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori, se avete i livelli di pressione un pochino sopra la norma e magari non seguite la terapia, se avete la glicemia, no? Se siete diabetici, se soffrite di mal di testa o se siete allergici, perché diamo tutta questa serie di fattori di rischio, professore? Perché voi avete fatto delle indagini, avete visto che c'è una relazione molto stretta tra la salute dell'automobilista e il rischio di avere degli incidenti. Sì, è sempre piacevole in queste condizioni dover parlare di grandi numeri, però su 34 milioni di patentati italiani, patentati e patentate, ci sono già 14 milioni di malati, 3 milioni di diabetici, 4 milioni di ipertesi e così via dicendo. Insomma, è uno spaccato dell'Italia malata che purtroppo guida, e nessuno sa che il rischio è assolutamente dietro l'angolo. Basta pensare a uno dei grandi fattori che in questo momento con l'Expo a Milano si vuole puntualizzare, fattori di rischio gravissimo, che è l'obesità. Mangiar meglio è sicuramente un input per tutto il pianeta, ma anche per gli italiani che hanno 1,5 milioni di obesi o di soggetti in sovrappeso. Basti pensare che 800.000 bambini al di sotto dell'adolescenza sono già obesi. Sì, abbiamo i bambini più grassetti d'Europa. L'obeso ha la caratteristica di sedersi al cockpit del volante, accendere la macchina, cominciare a fare i primi passi in macchina e poi di addormentarsi, perché obesità e incoming sleep, cioè sonno che arriva rapidamente, è verificabile già in uno stesso soggetto, ancorché non obeso, normale, che ha finito di cenare, si siede davanti alla televisione e si addormenta. L'obeso lo fa con un anticipo che è quantizzabile sui 4-5 minuti rispetto a un soggetto normale. Il diabete è un'altra caratteristica molto importante, perché il diabetico che guida in città ha uno stress catecolaminico tale da avere incrementi della glicemia decisamente superiori a quelli che invece si verificherebbero, si verificano se invece in crociera autostradale, piccoli incrementi ma compatibili con la guida. E questa è una delle tante spiegazioni che dice che la maggior parte degli incidenti stradali, avvengono 76%, nelle metropoli, in città e non in autostrada. Professor Ferrara, vogliamo anche i suoi consigli. Sentiamo che cosa ci chiede Giorgio. Ci chiama da Verona, 800 24 00 24. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Io sono un agente di commercio, quindi di chilometri durante il mio tragitto lavorativo ne faccio parecchi, e si parla sempre anche di sicurezza in generale, appunto dettata dalla viabilità, ma soprattutto mi rendo conto anche che tante volte viene trascurata anche quella che è la salubrità all'interno dell'auto, cioè il fatto di di polveri sottili che respiriamo all'esterno, ma figuriamoci concentrati in un ambiente chiuso come quello dell'auto, e so che ci sono degli studi in questa direzione che stanno portando dei nuovi materiali plastici da integrare all'interno appunto dell'abitacolo, che hanno un effetto ionizzante. La particolarità appunto per abbattere queste polveri sottili e soprattutto anche allergeni, batteri ed altro. Volevo sapere se siete al corrente di queste nuove tecnologie. Professor Ferrara, lei le conosce? Sì, ma non sono particolarmente utili. No, non sono particolarmente utili, perché noi nel nostro volume abbiamo riportato le fotografie elettroniche a scansione di questi materiali plastici in vetture che sono state intimamente e profondamente ripulite col vapore. Eppure ci sono delle sostanze che sono visibili in queste microfotografie che poi vengono inalate. Il problema non è la questione delle polveri sottili, a meno che non si prenda in considerazione il fumo in auto. Di cui parleremo tra poco, che deve essere bandito definitivamente, ma una delle prime dei primi target che dobbiamo porci è quella della valutazione dei fattori biofisici in auto, cioè il controllo rigoroso della temperatura e dell'umidità. I soggetti asmatici sono sempre, parliamo sempre di numeri, 3 milioni circa, che entrano in una vettura che è stata raffreddata e soprattutto deumidificata dal climatizzatore, cominciano ad avere subito lo starnuto, colpo di tosse e crisi d'asma. Ed è buona norma, come consiglio io ai miei pazienti, cercare di rendere l'atmosfera nella quale si vive molto ricca di satura di umidità relativa. Quando in una casa una massaia fa il bucato, lo deve stendere in camera da letto, in modo da umidificare l'ambiente per quelle 7-8 ore che occorrono per riposare tranquillamente. E così la vettura, che è un ambiente molto più piccolo, facciamo il bucato, prendiamo, esatto, i panni. Bravissime, umidi. Ragazze, allora ditelo alle case premium, come si chiamano oggi, in modo da attrezzare il climatizzatore, cosa che non avviene, con dei supporti di umidificazione. Quanto ai materiali di cui dovrebbe essere corredata la vettura, più che materiale plastico, bisognerebbe polarizzare queste schiume, queste resine con cui la macchina è costruita, in modo da attirare effettivamente quelle sostanze strane che possono galleggiare nell'auto. Basta vedere un'auto in una bella giornata di sole con una lama di sole che filtra attraverso i finestrini e si vede di tutto e di più. 800 24 00 24, che aria tira nella vostra vettura? Ma diteci anche, a proposito di aria, se siete fumatori. Professor Ferrara, bisogna bandire il fumo, non solamente naturalmente dalle auto, ma il fumo, lo sappiamo, è la prima causa di tumore al polmone, ma nel suo libro sottolinea un aspetto molto interessante, che non toglie niente al ruolo del fumo come fattore di rischio per la nostra salute, ma ne sottolinea il ruolo per la nostra sicurezza. Cioè, chi fuma riduce la capacità, l'attenzione, la prontezza dei riflessi. Professore, mi sia consentita una battuta leggermente polemica, ma d'altra parte fa l'avvocato questo nostro ministro della sanità e non può sapere queste cose. Quando ha istituito, ed è stata molto brava e intelligente la Beatrice Lorenzini a parlare di bando del fumo in auto, c'è un solo paese che lo fa ed è l'Inghilterra, la Gran Bretagna dal 2008, ha parlato di fattore di distrazione e fattore di nocumento per i bambini piccoli. Tutto giustissimo, ma il vero fattore di nocività del fumo è che ogni sigaretta abbassa del 2% l'apporto di ossigeno alle coronarie, al cervello, a tutti gli organi sensoriali, e quindi questo è determinante nell'abbassamento della driver performance, cioè la capacità del guidatore agli stimoli sensoriali esterni. Ma dentro e fuori l'auto, anche se lo fumiamo fuori dall'auto, ci abbassa del 2%, naturalmente. E quindi, però in auto questa percentuale. Stolto come me, in un autogrill si ferma per fumarsi la sigaretta, dovrebbe riconsiderare, lo dico a me stesso, stesso, che comunque la sigaretta non va fumata quando si guida. Ma un altro problema molto serio è quello della inveterata abitudine di ritenere che aprire i finestrini sia essenziale per ricambiare l'auto. L'aria nell'auto. Se bastasse quello per cambiare l'auto, in un vecchissimo esperimento condotto in Colorado nel 1919, ai tempi di Rodolfo Valentino, io dimostrai che l'aria inquinata attraverso i finestrini aperti entra ma non esce. L'unico sistema è dotarsi di un tetto apribile, l'optional, vero optional della salute, che consente con un camino aspirante una aspirazione e ricambio d'aria totale in funzione della velocità dell'auto, e questo l'abbiamo dimostrato. Vedi, a me piacerebbe la Spider, ma poi un giro in Spider. D'altronde se ne va della nostra salute, Nicoletta, certo, chi siamo noi per opporci a questa nuova abitudine? Ma dite ai vostri mariti di tagliarvi il tetto della macchina e camminare, così. Capelli al vento. Con lo scooter può andare bene come alternativa, professore? Lo scooter è estremamente pericoloso. Anche lui è estremamente pericoloso, però secondo Ashley Madison, che è un portale dedicato, un portale al femminile, un portale rosa, si dice che la maggior parte delle donne che devono tradire l'uomo lo fanno in scooter e non vanno mai con la macchina, che è identificabile. Cosa vedi, professor Ferrara, dobbiamo invitarlo anche perché in un'altra puntata. Perché non possiamo dire quello che ha raccontato a microfoni spenti. Lasciamo questo velo di mistero. Invece raccontateci voi, 800 24 00 24, che cosa vi pesa di più quando guidate? Avvertite delle tensioni, collo, spalle? Professor Ferrara, mi aiuti lei, no? Questi dolorini che si verificano soprattutto testa, mal di testa è rivolto alle signore, la cefalea incombente che fa venire la congiuntivite e per alcuni minuti addirittura si fa una guida cieca. Professore, e in questi casi, quindi lei lo specifica bene nel suo libro, non bisognerebbe mai mettersi alla guida quando non stiamo bene, no? E questo sarebbe buon senso. Questo è buon senso. Ecco, pensiamo a tutte le persone che ci stanno scrivendo, fanno un sacco di chilometri con dei veri e propri kit di sopravvivenza all'interno dell'auto. E spesso ci sono in questi kit anche dei farmaci, bisogna stare estremamente attenti al tipo di farmaci, per esempio quelli contro il mal d'auto, che contengono delle sostanze, lasciamo stare i termini tecnici, ma delle sostanze psicotrope che possono abbassare gravissimamente la risposta sensoriale agli stimoli della guida, anche se sono utili per il mal d'auto. Ma per il mal d'auto c'è un grande rimedio. Qual è? Allora, controllate la trazione della vettura. Se la vettura in cui vi muovete ha trazione, è semplice di rimedio. Adesso perché già io la trazione della vettura come si fa? Io che sono una vomitina in auto, che faccio? Controllo la trazione della vettura. Ogni macchina, ogni vettura ha nel suo libretto di istruzioni un punto dedicato alla trazione. Se è trazione posteriore, mai sedersi dietro e sedersi solo davanti. E soprattutto cercate sempre di comprare o utilizzare una vettura che abbia i sedili leggermente rialzati. Non dico il SUV che ha un baricentro spostato in alto, ma spostatevi sempre più in alto. Un cuscino può bastare a portarlo con noi? Uno, due, tre, quattro cuscini. E naturalmente il problema essenziale non è nelle guide rettilinee, ma nelle curve, là dove la macchina purtroppo ha una deviazione di asse longitudinale, quindi ha l'imbardata. L'imbardata è estremamente nociva e determinante il mal d'auto. Però cantando, professor Ferrara, di solito non si soffre. C'è uno studio di una splendida neurologa cecoslovacca che ha dimostrato quanto possa essere determinante la perdita di attenzione focalizzata nella genesi del mal d'auto. Bisogna avere un punto di riferimento visivo, spaziale, temporale e soprattutto mentale. Che ci consente di tenere ben ancorati i nostri sensi, che sono poi quelli vestibolari sostanzialmente della coclea, e soprattutto integrarli con la corteccia. Insomma, bisogna sempre avere mordente, e questo pare sia nella un ottimo vita sistema. Come in auto, quindi guardi in avanti, esatto, le è piaciuta, no, ma questo è il motivo per cui, per esempio, io che soffro, se guida qualcun altro e io sto seduta dietro, davanti, trazione anteriore e posteriore, non serve nulla, mi viene sempre da vomitare, sono sempre l'addetta alla guida proprio per questo motivo. motivo, la grande concentrazione della guida evita appunto di... Però se tu guardi avanti e canti... Beh sì, ma bisogna polarizzare sguardo ed attenzione. 800 24 00 24, chi c'è? C'è Francesco. Francesco da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere questo, per migliorare la qualità dell'aria La sua pressione, scusi, Francesco, lei mi parla dell'aria e arriviamo subito, sì. Ma la sua pressione come va? Bene. Bene, dice bene, lui. Ma io sono un naturista, diciamo, oltre a vabbè, ma può essere. Ah, va bene, no, quindi. So tranquillamente sull'alimentazione, sulla diciamo, molta attenzione sull'alimentazione, soprattutto fare sport e attenzione al sedile, che è un'altra delle cose che non so se avete trattato, però volevo anticiparvi qualcosa, un'idea, ma così. Magari... Certo, grazie. Veloce perché stiamo chiudendo, Francesco. Sì, un ozonizzatore per abbattere le cariche batteriche, migliorare la qualità dell'aria, quando spegni la macchina, che oggi potrebbe essere, dato il volume in un'auto, costi abbastanza contenuti. Non potrebbe essere una soluzione, ovviamente quando non c'è il guidatore, quando chiudi la macchina è... Ecco. Vediamo, non lo so, professore, le piace questa idea? Sì, in conclusione essere... abbiamo poco tempo prima di salutarci. A seconda della carica ionica che si stabilisce in una macchina, in funzione della temperatura e dell'umidità, potrebbe essere di estrema utilità la ionizzazione, ma potrebbe anche essere negativa, quindi ci vogliono dei controlli ben precisi. La cosa principale è far combaciare questi due parametri, che sono temperatura e umidità, cioè una temperatura che non sia né troppo calda né troppo fredda, e l'umidità che deve essere superiore al 60%, stile Singapore. Andiamo al sedile. Benissimo. Il sedile è importantissimo. Il sedile la prossima volta, non svegliamo, alla prossima. Grazie, abbiamo terminato, ci dispiace anche quasi andare via da Bologna. Noi ringraziamo Davide Ciocia, Filippa Oreggi, Zotta Scenna che è venuta con noi, Alessandro Filippini, anche Nicola Giardino che ci ha fatto compagnia in quest'ultima parte della trasmissione. Che facciamo? Torniamo a Milano? Sì, salutiamo in treno, il professor mannaggia, Ferrara. Peccato, mi sarei divertita che ringraziamo oggi. E reinvitiamo a trovarci. È stato un piacere per me, grazie. A tutti a lunedì, è venerdì oggi, mi confermi. A lunedì, buon weekend.